Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti, vi stavamo aspettando, siamo in tanti, abbiamo Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, i nostri ospiti, uno in studio e già in linea invece da Roma, e noi oggi parliamo di una cosa un po' strana, una serie di un mondo di movimenti e gesti più o meno consapevoli con cui riempiamo spazi vuoti del nostro tempo o della nostra vita, attraverso i quali proviamo ad addomesticare un'ansia che ci prende, che non sappiamo controllare in altro modo. Vi siete mai chiesti, ad esempio, perché ci sono persone che si giocano, no, con le ciocche dei capelli, o c'è chi scarabocchia un foglio mentre è al telefono e durante una riunione di lavoro, o chi, pur essendo sfinito dalla stanchezza, non riesce ad addormentarsi senza andare in cucina a controllare se ha spento il gas? Allora, come possiamo definire tutti questi comportamenti? Che ruolo, che peso hanno nella nostra vita? Sono liberatori o al contrario ci ingabbiano in situazioni da cui forse a volte è difficile venirne fuori? Ne parliamo oggi insieme al professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. E qua in studio con me il professor Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta, nonché il mio inquilino di Questa casa non è un albergo, il programma del sabato, ogni sabato a mezzogiorno, dedicato ai genitori e ai figli. Alberto, così ci promuoviamo. Certo, ascoltateci come ascoltate oggi Nicoletta. Buongiorno a tutti. Professor Barbanti, mi fornisca delle immagini, proprio come se fosse un vignettista, per descrivere chiaramente quelle che mi piace definire strategie anti-ansia, o, per non arrivare subito a delle conclusioni, delle irrinunciabili manie. Sì, una piccola premessa: noi siamo costretti a muoverci quando siamo emozionati e siamo costretti a emozionarci quando ci muoviamo. Sono due aree, il movimento e l'emozione, strettamente correlate. Io proverò a fare quattro piccoli esempi. Il primo, un esempio banale, un esempio ansioso: una persona che parlando arrotoli, per esempio, nelle mani una piccola cartuccia, o magari rigiri la penna. Questo è un evento estremamente frequente nel mondo del lavoro, in ogni circostanza. La seconda invece è quella di tentativo di manifestare l'ansia in forma, direi, ancora piuttosto raccolta, che è la superstizione: incrociare le dita, magari di nascosto, quando la conversazione, l'argomento incomincia a toccare aspetti ad elevato valore simbolico, magari negativo. La terza possibilità è una manifestazione invece dell'ansia a un livello più elevato, ed è esattamente l'ossessione. Quante persone in ascolto, dopo aver chiuso la porta di casa uscendo, la tirano ancora verso di sé per vedere se l'hanno chiusa, o riprovano magari a dare una mandata con la chiave per vedere se una o due erano state inserite? Il quarto aspetto è i tic. I tic sono un capitolo estremamente interessante e importante, ma non pensiamo solo alle mani, e formuliamo sempre agli ascoltatori la domanda di quanti si trovino inconsapevolmente a schiarirsi la voce prima di incominciare a parlare di fronte a delle altre persone, magari in casa non lo fanno, oppure a tirare un po' su con il naso ritmicamente mentre parlano. Ecco, questi quattro paradigmi daranno motivo di discussione. 800 24 0024, devo dire che mi sono riconosciuta in quasi tutti. Alberto, anche tu? Abbastanza. Ma con Alberto vorrei parlare di bambini. Qual è l'equivalente per i più piccoli di ciò che il professor Barbanti ha raccontato per noi adulti? Ma sono proprio piccole cose, piccoli comportamenti che vediamo tutti i giorni fare dei nostri bambini, quasi sempre inconsapevolmente. Sono lì seduti sul divano, stanno guardando la televisione, improvvisamente un pollice entra in bocca e loro cominciano a succhiarlo, magari per 10 minuti consecutivi, e hanno 6-7 anni. Oppure avete un bambino più piccolo che per addormentarsi deve assolutamente stuzzicare l'angolino di un lenzuolo con le unghie, e non potete toglierglielo, perché appena provate a non farglielo fare, lui immediatamente si risveglia e vuole ricominciare. O ancora potrebbe essere che c'è un bambino che prima di addormentarsi chiede alla mamma o al papà di andare loro prima in camera a controllare che non ci sia un mostro sotto il letto, e solo quando avete realizzato questo passaggio poi può entrare in stanza a dormire. O ancora lo vedranno molti insegnanti proprio all'inizio dell'anno scolastico, a settembre, quando un bambino magari entra in prima elementare, e nei primi giorni le maestre sono molto colpite dal vedere questi bambini tutti seduti, apparentemente tranquilli, con le gambette che invece si muovono ininterrottamente, a volte anche per molti minuti. Professor Barbanti, a proposito di gambette, ci sono proprio persone che non stanno mai ferme con le gambe, parlano e muovono una gamba o il piede. Anche questi sono dei piccoli gesti che spesso mettiamo in atto in automatico. Senza dubbio sì, quello della gamba è un tambureggiare, il tallone per terra è una delle manifestazioni più frequenti della tensione, dello stress, ma non è l'unica, ci sono anche possibilità di manifestarla attraverso il tronco, per esempio, inarcandosi. Pensiamo quante persone di fronte a noi per via dell'emozione cambiano ripetutamente la seduta o si torcono lievemente, quasi avessero un indolenzimento. Quello possiamo fare, dicevamo prima, con il respiro, con la voce, con la parte più, quella che noi chiamiamo prossimale, cioè più vicina al corpo, degli arti, piccoli movimenti delle spalle, sollevate e abbassate, quasi che ci fosse un discomfort dell'abito, magari leggero visto che siamo in estate, che abbiamo addosso. Però la parte fondamentale rimane la mano, e il motivo è molto chiaro, c'è una grande mano nella nostra testa. Pensate che della superficie del movimento e della sensibilità, che riguarda tutto il corpo, un quarto è occupata dalla mano, la quale è anche molto vicina all'area della bocca. Ecco quindi la estrema facilità con cui noi riusciamo a esprimere tramite la mano tensioni, emozioni, aspetti positivi, ma anche superstizioni e tic. E un'ultima cosa mi premeva sottolineare, il fatto che queste nostre piccole manie si intrufolano in maniera quasi intelligente sfruttando il contesto. Mi spiego meglio. Siamo una Repubblica basata anche sul calcio, ci sono stati mondiali. Il calciatore intervistato in studio, se messo alle strette perché magari ha giocato male, manifesta il disconforto magari passandosi un dito tra il collo della camicia e il proprio collo, oppure aggiustandosi la cravatta. Se l'arbitro lo ammonisce in campo, il dettaglio non è molto edificante, sputa. C'è sempre da chiedersi cosa sputino i calciatori. Vedendo con mia moglie, mi diceva: ma perché fanno sempre così durante i mondiali? È certamente una manifestazione, in quel caso, della tensione, una piccola mania che risente del contesto, in quel caso un prato, in cui la persona si trova. Intanto voi chiamateci all'824 0024, scriveteci al 349 238 6666. Qual è il gesto che fate, al quale non potete rinunciare, perché magari vi aiuta a calmare l'ansia? E quale gesto nelle persone che vi stanno vicine non riuscite a sopportare, ciò nonostante loro non riescono proprio a modificare? Dato che sono sicura che ciascuno di noi ha le sue piccole manie, i propri rituali o i gesti che consapevolmente o in automatico mette in atto, giro anche la domanda ad Alberto Pellai e al professor Barbanti. Confessatevi un po' anche voi. Alberto, ad esempio, è un grande scarabocchiatore di fogli. Io sì, quando sono in una situazione dove devo tenere in realtà la mente desta e ho comunque davanti a me fogli e una penna in mano, io sono proprio uno scarabocchiatore. Secondo me questa è una di quelle attività che faccio un po' inconsapevolmente per tenermi costantemente attivato, cioè per non mollare mai il livello di attenzione. Professor Barbanti, devo preoccuparmi, perché io Alberto lo vedo con una certa frequenza. Cosa dice? No, rischio? Ma dovrebbe preoccuparsi anche per me, perché in questo momento sto arrotolando con la mano destra una piccola cartuccella. In realtà c'è un motivo neurofisiologico molto importante. Durante il movimento della mano, ripetuto, gestuale, noi, e lo diceva Alberto Pellai prima, siamo più attenti, addirittura memorizziamo meglio. Pensiamo a uno studente che ripeta, ormai la maturità è terminata, ma che ripete la lezione per un esame molto importante, gesticola, oltre a camminare molte volte, ma gesticola mentre parla. Quindi il movimento delle mani, a volte traditore, tradisce esprimendo la nostra tensione, molte volte invece ci aiuta a concentrarci e a memorizzare, quindi ben vengano queste cose. Stefano ci chiama dalla provincia di Verona, vediamo che cosa ci racconta. Buongiorno Stefano, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Senta, io chiamavo per questo problema che mi affligge praticamente da sempre. Ovvero, io ho 62 anni, penso di essere una persona sufficientemente equilibrata dal punto di vista psichico. Però ciò nonostante mi capita, le faccio un esempio in maniera tale che si capisca quello che volevo comunicarvi, cioè io esco di casa, chiudo la porta di casa e sono capace di tornare tre volte per verificare se la porta di casa è chiusa. E lo stesso, poi non parliamo quando vado via per le vacanze, quello che faccio per chiudere l'acqua. Non lo so, io credo da questo. E guardi però che mi accade solamente per queste cose, poi per tutti gli altri fatti della vita, io credo di essere normalissimo, almeno spero. Professor Barbanti. Dunque, si tratta di una piccola ossessione. L'amico Stefano di Verona però si deve rendere conto che quella ossessione riguarda una cosa molto importante, l'integrità, la sicurezza, la salute della propria casa, quindi della propria famiglia. Direi che quando le cose sono così confinate a piccoli aspetti non devono destare preoccupazione. In realtà questa, che è una via di mezzo tra una scaramanzia e un'ossessione, non desta allarme, a meno che non diventi un imperativo assoluto, a meno che Stefano non debba essere nel corso della giornata costantemente sobillato da una specie di pensiero interiore a far prevalere lo schema sul contenuto. Direi in due parole, molta tranquillità, lo fanno moltissimi, e quindi non c'è da pensare a evoluzioni in malattie o in disturbi importanti. Stefano ci scrive: passeggiando non riesco a calpestare le strisce, come se fosse in un videogioco. Beh, la stessa cosa. Direi che queste fanno parte di una serie di, tra virgolette, piccoli reati sdoganati e condonati. Il camminare sulle strisce, il scendere dal letto mettendo prima la pantofola destra, sono piccoli stratagemmi che noi utilizziamo per la paura del vuoto. È proprio questo, vorrei dire, vuoto quale? Il vuoto della esistenza. Noi dobbiamo, quando ci troviamo di fronte ad una necessità di scegliere, e la vita ci impone la scelta, vorremmo sempre avere una sponda a cui appoggiarci, e allora è come se facessimo inconsapevolmente una sorta di contratto con la ansia che l'esistenza genera, e cioè non invadere tutta la mia giornata, io ti lascio alcune zone franche, che sono questi piccoli rituali della superstizione in cui tu puoi comparire e io ti evito, e tu mi lasci liberi tutti gli altri momenti. Alberto. Sì, riflettevo sul fatto che poi ci sono proprio alcuni pazienti, e questo succede inconsapevolmente anche nei piccoli, che hanno come un timore inconsapevole di perdere il contatto con se stessi, cioè quasi non ce ne rendiamo conto, ma assolvere ad alcune piccole manie, per esempio toccarsi, arrotolarsi i capelli, è un modo anche per sentire che noi siamo dentro quel corpo, ed è molto interessante perché in alcuni pazienti che per esempio hanno un problema di tipo dissociativo, cioè perdono un po' il contatto proprio con la consapevolezza di sé, questi sono comportamenti che entrano in automatico quasi per dare a se stessi una prova che io sono dentro me stesso, io ci sono, io sono in questa scatola. Ecco perché hanno così tanto a che fare con aspetti di toccarsi parti del corpo. Professor Barbanti, Alberto ha detto appunto ci sono dei comportamenti, dei gesti che facciamo quasi in automatico, che si arrotola i capelli, si mordicchia le unghie. Un'altra cosa invece, come ci raccontava il nostro ascoltatore, ci sono proprio dei comportamenti che partono, no, dal nostro cervello. Noi diciamo: ho chiuso la porta, sono quasi sicuro di averlo chiuso, ma ritorno su e la controllo, mi alzo dal letto e vado a vedere se ho spento il, che ne so, il televisore oppure il ferro. Allora, sono due, noi così oggi trattiamo insieme questi comportamenti, ma hanno delle differenze. Ma senza dubbio sì, diciamo che c'è uno spettro continuo che va dall'ansia normale dell'esistere all'ossessività, in mezzo c'è un po' la superstizione. Innanzitutto c'è da dire una cosa, questa integrazione che c'è tra il nostro muoverci e le emozioni avviene in una sorta di riunione del G8 in una terra neutra, che sono i nuclei della base del nostro cervello. Quella è una zona che riceve informazioni del movimento, delle emozioni, delle sensazioni, ed è sempre attiva. Ci ricordiamo forse il giorno che siamo stati chiamati per l'orale di maturità, chissà come eravamo goffi nel camminare, l'emozione modifica gravemente il nostro movimento. D'altra parte, persone che hanno disturbi del movimento, pensiamo ai tic gravi, hanno anche importanti disturbi emotivi come il disturbo ossessivo compulsivo. Quindi cosa dobbiamo pensare? Noi dobbiamo pensare che l'ansia è in grado di indurci dei movimenti di scarico, di manifestazione esterna, e questo può rappresentare semplicemente una piccola deroga ad un modo di comportarci altrimenti troppo freddo, troppo rigido, senza dubbio non mediterraneo. E in questi casi può rappresentare, un po' come il pupazzo del bambino, la penna per le firme importanti, un piccolo alleato, una sorta di procedura che ci fa stare tranquilli. Cioè mettiamo il contenuto, che evidentemente è la parte importante, dentro uno schema che noi conosciamo, la penna, l'abito giusto e così via. È chiaro che però quando la nostra vita è fatta di schemi e non di contenuti, siamo sconfinati nell'ossessività, e in quel caso ci vogliono ovviamente approcci, terapie, a volte anche farmacologiche, importanti. Ci sono atleti che prima di una gara non possono fare a meno di seguire dei piccoli riti, no? E in linea con noi abbiamo Valentina Vezzali, icona dello sport italiano, che proprio qualche giorno fa ha conquistato il suo quinto titolo europeo individuale. Valentina, ciao! Buongiorno a tutti! Guarda, noi vinciamo sempre con te, e questo è una cosa, ti guardiamo, ecco, ce l'ha fatta un'altra volta, ma... prima di vincere, le tue vittorie sono legate a qualche, oltre vabbè, naturalmente l'allenamento, ma anche a qualche piccolo rito scaramantico? Ma guarda, io più che rito scaramantico lo chiamerei un modo di cercare di concentrarsi e di isolarsi un po' da quello che è il resto del mondo e cercare di pensare solo all'avversario che ti trovi di fronte, a piazzare una stoccata dopo l'altra. Quindi diciamo che un po' chiamiamolo rito scaramantico, chiamiamolo un po' rito di per la concentrazione. Per quanto mi riguarda, io quando mi trovo in un appuntamento importante, ma anche in una qualsiasi gara, cerco un po' di mettermi da parte del resto del gruppo e magari per cercare di combattere lo stress, la tensione, l'ansia, perché nonostante tanti anni di gara, ogni volta magari lo stress e la tensione è ancora maggiore, perché... non è facile mettersi in discussione, mi metto in un angolino da sola e mi metto a cantare tutto il repertorio di Eros Ramazzotti, perché lo adoro alla follia, e cantando da sola, perché sono veramente stonata, riesco in certo qual modo a rallentare, ad allentare un po' la tensione e riesco a concentrarmi. E io credo che ognuno di noi abbia il suo metodo per concentrarsi. Io vedo molte atlete, per esempio, che ascoltano la musica prima di una gara importante, quindi ognuno di noi cerca di entrare nel proprio mondo. E c'è una bella università, è stata svolta all'Università di Colonia, che ha dimostrato che questi rituali negli atleti potenziano proprio le loro performance, rendendoli più sicuri e stimolando la loro voglia di vincere. Professor Barbanti, quindi io ricordo qualche giorno fa di aver letto questo articolo, mi sembra, su Repubblica, che titolava "Incrociare le dita fa vincere, no? Aiuta a vincere". In fondo anche Valentina ci conferma, no? Questa, la tesi di questo studio. Senza dubbio, sì, come sentivamo dalla campionessa Vezzali, in realtà concentrazione, ansia, gesto, superstizione si fondono tutte assieme. Quando viene fatto uno sport, la scherma ne è un esempio, non c'è un secondo in cui si possa lasciare la tensione nervosa, o pensiamo ovviamente a un saltatore in alto prima della partenza, lì è come se ci fosse una chiamata alle armi dei centri del movimento, di questi benedetti nuclei della base, e viene raschiato il barile dal fondo, si attivano ovviamente i movimenti atletici, eventuali tic, smorfie, la componente ansiosa, la componente superstiziosa, il tutto in una miscela esplosiva che, se ben orientata dalla fortuna, ma direi soprattutto dal talento, consente, dicevamo prima, di eseguire meglio quel movimento con maggiore concentrazione. Quindi in questo caso procedure apparentemente superstiziose, il sentire la musica magari sempre la stessa, in realtà come elemento di rinforzo molto forte della capacità atletica e della capacità di agire. Valentina, quando non devi affrontare una gara, che cosa fai? Hai anche tu le tue piccole manie, le piccole ossessioni? Devo dire che i miei ascoltatori me ne stanno veramente mandando un repertorio al 349-238-6666. C'è chi non può fare a meno di scarabocchiare il foglio, chi stacca le etichette delle bottiglie di acqua minerale, chi quando è stressato conta i passi, chi evita le strisce. Tu che cosa fai? Ma guarda, ti vorrei solo dire riguardo una cosa riguardo alla concentrazione o a riti scaramantici prima di una gara. Ci sono tantissime persone che mi dicono che quando io entro dentro un palazzetto per disputare un campionato del mondo, un'Olimpiade o una manifestazione Coppa del Mondo, qualsiasi gara, mi dicono che cambio completamente espressione, che sembro una persona completamente diversa. Quindi è come se la mia faccia fosse diversa. E invece al di fuori sono una persona veramente normalissima e magari... Ma cose che faccio quotidianamente non me ne vengono in mente. Magari ecco, sono un po' golosa e quindi a volte mangio una piccola pecca. Mi piace mangiare tanta cioccolata, però questo che fa bene tra l'altro anche al cervello, vero professor Barbanti? Fa benissimo al cervello, dà molta energia, ovviamente anche non solo fisica ma anche psicologica. E addirittura il componente principale all'interno del cioccolato dà sensazioni simili a quelle dell'innamoramento, questo sembra, quindi direi veramente un ottimo alimento. Grazie a Valentina Vezzali per essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie, un abbraccio. È cominciato il film? Sì, ma solo da 2 minuti. Chiuso? Niente, beh, io non posso entrare. 2 minuti, Al. No, mi dispiace, ma non posso, il cinema è già saltato, io lo sai, io non posso entrare a metà. A metà? Hai perso i titoli di testa, sono in svedese. Prendiamo un caffè per 2 ore o qualcosa qui davanti? 2 ore? No, io entro ora. Ah sì, vai, ora. Addio. Senti, parliamo, e a quest'ora potevamo già essere entrati. E potremmo non stare qui a discutere davanti a tutti, va bene. È un imbarazzo. Va bene, allora cosa vuoi fare? Non lo so ora, vogliamo andare a vedere un altro film? Oh. Andiamo a Il dolore e la pietà. Oh, ma l'abbiamo già visto, io non torno a vedere 4 ore di documentario sul nazismo e i nazisti. Oh, mi dispiace, io non riesco, io devo vedere un film proprio dal principio alla fine, sono a senso unico. Si direbbe piuttosto che hai un unico senso. Il grande Woody ci dà sempre delle occasioni di ispirazione, professor Barbanti. Allora noi torniamo a parlare di riti, manie, superstizioni e tic. Abbiamo tanti ascoltatori che hanno chiamato l'824-0024 per saperne di più, per capire un po', insomma, devo preoccuparmi o sto tranquillo? Gabriele da Padova, buongiorno, cosa fa lei? Buongiorno. Buongiorno. Io ho l'abitudine che quando rispondo al telefono faccio sempre dei disegnini, faccio delle linee. Anch'io Gabriele, e vedo anche il foglietto di Alberto Pellai, siamo pieni di cuoricini, stelline, righette. Chiediamo al professor Barbanti. Professore. Ma direi Gabriele di stare tranquillo, disegnare durante un compito di concentrazione, si immagina che magari al telefono si possa dire anche qualcosa di importante, non solo una chiacchierata, è semplicemente una maniera per stare più attenti, quindi non lo metterei nelle manifestazioni ansiose, non lo metterei nelle manifestazioni ossessive, nemmeno in quelle della superstizione. Dicevamo prima, la mano, il disegnare in questo caso, dà una mano, al di là del gioco di parole, al nostro cervello per lavorare meglio, per fissare meglio il concetto. Quindi è solo una strategia utilizzata per rendere di più, per fissare meglio ciò che in quel momento si sta discutendo. Alberto, ci sono dei genitori che, notando nei figli, soprattutto piccoli, delle piccole manie, come ad esempio quelle che hai descritto tu, arrotolarsi i capelli, aver bisogno della mamma per andare così a vedere se qualche orco è nella camera, e quindi per addormentarsi tranquillo, giocherellano con lo straccetto, la famosa nanna, il lenzuolo, molti genitori dicono no, adesso basta, smettila. È giusto cercare di trattenere, invitare i figli a darsi una regolata, oppure è meglio che lasciarli liberi di così abbandonarsi ai loro riti, scarica ansia? Dipende molto da tante variabili diverse. Intanto è fondamentale osservare quando il bambino mette in atto questo genere di comportamenti, perché per esempio se è nella fase dell'addormentamento, questo è proprio uno di quei comportamenti che permette al bambino di passare dal mondo del certo al mondo dell'incerto, e quindi questa è proprio una modalità, per così dire, di autoconforto. Quando era piccolo aveva il ciuccio, adesso utilizza questo genere di cose, e toglierglieli significherebbe proprio lasciarlo da solo con un passaggio passaggio da fare che lo spaventerebbe molto. Ci sono dei comportamenti, per esempio questo lo raccontano spesso anche le insegnanti a scuola, che invece possono essere molto problematici, per esempio i bambini che si toccano i genitali e che spaventano tantissimo le maestre perché pensano chissà cosa gli è successo. Questo è tutta, spesso il comportamento è molto simile, cioè solitamente vuol dire che il bambino, a meno che il comportamento non sia proprio compulsivo, che il bambino si sta annoiando, oppure che il bambino proprio non riesce a stare nel flusso della fatica che gli viene richiesta. E quindi allora cerca un po' delle ansie, esatto, di nuovo autoconforto. Allora è molto importante, quando notiamo un comportamento di questo tipo, o distrarre il bambino o ripescare il bambino e portarlo nel flusso della consapevolezza. Se il comportamento prende il sopravvento, cioè il bambino non riesce a liberarsene, allora dopo i 5-6 anni è proprio bene parlare col bambino e dire: ti voglio aiutare a non fare questo, a non agire questo comportamento in pubblico, perché potrebbe essere socialmente per te sconveniente, ti potrebbe far prendere in giro. E a quel punto si inventa una sorta di controrito, per esempio: quando ti vedo immerso in questo comportamento, io mi avvicino a te, ti metto una mano sulla spalla. Questo è il segnale che sei entrato in automatico dentro a quel comportamento e lo puoi bloccare. Dico una parola magica. Quando ad esempio i bambini iniziano a morsicarsi le unghie oppure a attorcigliarsi i capelli, si può aiutare, no? Con una parola. Certo, non so. In questo modo si può progressivamente aiutare il bambino a estinguere un comportamento in cui è entrato un po' in automatico, e lo si può anche aiutare con premi e rinforzi. Vorrei sentire Lorenzo, Sebastiano e Guido. Sentiamo le loro storie e poi andiamo a vedere che cosa si nasconde dietro questa superstizione. Lo siamo un po' tutti, ma nessuno ammette di esserlo. Lorenzo, buongiorno. Sono io? Sì, è lei Lorenzo. Se lei è un Lorenzo da Verona, ha chiamato l'824-0024, è lei. Sì, Renzo di Verona. Buongiorno a tutti quanti. Sì. Il mio vizio di, che chiamiamo lui, me lo porto fin da piccolo, sono i bottoni delle cuscini del letto, i bottoni delle giacche, dei cappotti. Ci gioco, mia povera nonna, la mia povera mamma non me li hanno più attaccati, perché proprio è un disastro. Se riesco, io me li sono messo da parte, adesso ho deciso quasi quasi, siccome non li ho più, di portarli in qualche saturia e farmi riattaccare. Oppure Lorenzo impari ad attaccarsi i bottoni da solo. Ma sono veramente deciso a farlo, mi piace giocare, è il freddo dei bottoni, però quelli in madreperla che mi attirano. Perché gioco... anche un po' raffinato Lorenzo. Andiamo a sentire Sebastiano da Frosinone. Lorenzo, i bottoni. Sebastiano, per lei? Buongiorno. Per me, vabbè, innanzitutto mi ritrovo subito nel discorso dello schiarire la voce. Sono un chiacchierone a casa e con gli amici, ma quando parlo con estranei o in pubblico devo necessariamente prima schiarirmi la voce. Ma chiamavo essenzialmente per mia moglie, che ha un bruttissimo tic nel toccare le persone con cui discute. E più si infervora nel discorso, soprattutto con me, con i familiari, e più li tocca. Gli tocca il braccio, gli tocca la spalla, è una cosa fastidiosissima. Io non riesco a fargli capire il fastidio che c'ha, soprattutto nel chiacchierare. Bisogna quindi parlarle mantenendo un po' di distanza. Analizzeremo anche questo aspetto e andiamo a Guido da Bari. Buongiorno Guido. Buongiorno, senta, io c'ho un problema, vorrei che qualcuno dei vostri ospiti mi chiarisse questo problema. È inutile dilungarmi sulla bontà della vostra trasmissione, perché questo è ovvio. Allora, ho un problema che mi assilla da alcuni anni. E nel momento in cui vado a compiere una determinata azione, tipo accendere o spegnere la luce, sì, devo per forza farla 3 volte, perché ho paura che, non seguendo questo metodo, mi possa capitare qualche cosa. Scaramanticamente il numero 3, perfetto. Grazie Guido. Professor Barbanti, Alberto Pellai. Allora, abbiamo un caso bottoni. Professor Barbanti? Telegraficamente, trasullarsi con il bottone né più né meno di quanto diceva Alberto Pellai prima, nel bambino il toccare l'angolo di un lenzuolo. Si tratta di una manifestazione che non è neanche definibile come tic, è esclusivamente una espressione della emozione e della propria ansia. chiarire la voce, diceva Sebastiano da Frosinone, ma soprattutto la moglie che tocca mentre parla. Non lo definirei quello un tic, è una sorta di disaccordo in quel benedetta zona chiamata nuclei della base tra le emozioni e il movimento. Un eccesso di emozioni fa fare un movimento, anche questo eccessivo, e quindi come se tracimasse, come se ci fosse troppa acqua in un vaso che esce poi fuori. Su questo è un po' difficile agire, si tratta del temperamento. Invece Guido di Bari, senza dubbio questa è una manifestazione ossessiva, direi compulsiva. Al solito, se rimane confinata in una piccola parte della giornata, si può chiudere un occhio, altrimenti occorre agire, perché c'è una parte del cervello, quella del cosiddetto ragionamento magico, che sta nel nostro lobo frontale, proprio davanti, un po' all'interno, che evidentemente è iperattiva. Professor Barbanti, ma chi è psicologicamente il soggetto superstizioso? Perché ad esempio molti di noi hanno già scritto, alcuni degli ascoltatori, sentendo appunto il nostro amico che dice devo spegnere e accendere la luce 3 volte, questa è pura superstizione. Lei ha dato una lettura diversa di questo fenomeno, ma tornando alla superstizione, chi è? Ma il soggetto superstizioso innanzitutto è un soggetto impulsivo. Dicevamo prima, due aree del cervello, uno per il pensiero magico posta proprio davanti al nostro lobo frontale un po' all'interno, e un'altra per un pensiero un pochino più, un ragionamento più coerente, un'area che rumina. Beh, nel soggetto superstizioso c'è uno squilibrio a favore della prima area, quella del pensiero magico. La cosa straordinaria è che se una persona superstiziosa deve passare sotto la scala, letteralmente si blocca. In quel momento cosa succede? L'area del ragionamento razionale non riesce a dire alle aree sottoposte, ai suoi dipendenti in senso gerarchico, andate, camminate, non è successo niente. Si blocca la trasmissione, e come si può fare? Solo con un atto magico, lo scongiuro, il girare alla larga, e quindi è come se nel momento topico della superstizione si disconnettesse un po' la razionalità e la capacità di eseguire un gesto. Professor Barbanti, si rischia a pensare che il gatto nero porti sfortuna? Beh, direi assolutamente no in senso generale, ma ci sono alcuni dati di letteratura che fanno sinceramente pensare. Per esempio, negli Stati Uniti, nella comunità cinese, il numero 4 è considerato il numero sventurato, e sono stati fatti degli studi tra i cardiopatici cinesi e americani. Si è visto che c'è un picco di mortalità il giorno 4 di ogni mese. Vuol dire che il 4 uccide? Certamente no, ma l'essere in un soggetto con una salute cagionevole, si parla ovviamente di cardiopatici ricoverati in ospedale, così suscettibili alla idea della superstizione, crea un tale stress che può dare un colpo di grazia, non diversamente dalla morte per riti voodoo. I riti voodoo che si sa possono addirittura irretire e terrorizzare alcuni tipi di culture, sono descritti come in grado di dare delle conseguenze pericolose per la salute, per il fatto che la zona dell'emotività, chiamata amigdala nel nostro cervello, viene letteralmente portata a 1000 come attività, e di fatto fulmina in maniera sincrona i nostri centri, alcuni dei nostri centri vitali, con una scarica eccessiva. È ovvio che questo si riferisce solo a persone estremamente suggestionabili, in culture particolari e con una salute di base molto compromessa. Allora, io vorrei rispondere a due sms. Inizio da un sms di Simone che mi scrive: sono un batterista e l'ansia da palco mi irrigidisce i muscoli delle mani, a volte fino ad avere dei crampi. C'è qualcosa che posso fare per indirizzare l'ansia altrove? Magari un muscolo che non mi serve per suonare? Alberto. Sì, io direi a Simone che il suo problema è diverso da quello che stiamo trattando oggi, perché la sua è un'ansia situazionale, cioè c'è un nesso causa-effetto tra cosa sta per fare e cosa gli succede. E nel suo caso è molto importante imparare tecniche di rilassamento, alle quali lui si può sottoporre avendole apprese proprio nel momento in cui sta per affrontare una cosa che lo agita così tanto, e chiaramente il problema magari non scompare ma può essere gestito molto meglio. C'è una richiesta d'aiuto importante. Cosa posso fare per evitare di farmi continuamente scoriazioni ripetute fino a sanguinare sul braccio? Questo è un magari affronteremo poi disturbi di questo tipo in una trasmissione ad hoc. Ma professor Barbanti, Alberto, qua ci troviamo di fronte ad un caso più serio rispetto a quello di cui abbiamo parlato sino ad ora. Sì, per quello che posso dire io, soprattutto proprio perché l'ascoltatore o ascoltatrice, non dice il suo nome, specifica da anni, qua siamo nell'area dei comportamenti autolesivi, probabilmente trasformati un po' quasi in una attività che avviene molto frequentemente in modo inconsapevole, ma che devono arrivare poi a far vedere il sangue. Quindi c'è un quadro realmente più complesso e su questo forse è necessario lavorare un po'. Chiedere aiuto, professor Barbanti. Chiedere aiuto certamente, e con ogni probabilità abbassare i livelli di ansia. Abbassare i livelli di ansia e tramite terapie psicologiche specifiche imparare a portarla all'esterno con sul versante non somatico. Imparare a verbalizzarla, imparare in parte anche a scrivarla. Non sono in realtà casi rari questi. E sono frequenti tra i ragazzi, Alberto? Proprio in adolescenza è una delle età in cui il comportamento autolesivo è spesso più frequente. Sono talmente travolti da un mondo di nuove sensazioni, nuove emozioni, spesso anche attraversati dal disagio, che non riescono a comunicare in altro modo. Come diceva il professor Barbanti, tirarlo fuori vedendolo proprio scritto attraverso le ferite del proprio corpo è un modo molto disfunzionale, che se non altro noi adulti dà il vantaggio che può essere visto, intercettato, e quindi ci consente di poter fare anche un intervento molto veloce. Prima di salutarci, cambiamo decisamente argomento per occuparci di una notizia di attualità. La mucca pazza colpisce ancora, un nuovo caso a Livorno, una donna di 42 anni in gravi condizioni. Io direi, prima di farci impressionare dalle parole dei titoli che abbiamo letto o sentito, cerchiamo di vederci chiaro con l'aiuto del professor Maurizio Pocchiari. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Neurologo e responsabile del Registro Nazionale della Malattia di Creutzfeldt-Jakob dell'Istituto Superiore di Sanità. Professore, grazie per essere con noi innanzitutto. Grazie a voi. E poi alcune precisazioni. Noi la chiamiamo mucca pazza, in realtà dovremmo chiamarla morbo di Creutzfeldt-Jakob. È importante fare questa distinzione, professore, perché? È importante perché il morbo della mucca pazza è un modo così, diciamo così, popolare per chiamare l'encefalopatia spongiforme del bovino, che è una malattia per l'appunto dell'animale, mentre invece la malattia di Creutzfeldt-Jakob è una malattia dell'uomo, per cui sono due malattie diverse, anche se hanno una stessa eziologia, però è bene separarle. Almeno sapere che sono due cose da separare. Secondo punto, professore, che vorrei esaminare con lei, la malattia ha due forme, una detta variante, l'altra sporadica. È bene saperlo e sapere anche che sono è opportuno fare delle distinzioni. È molto importante, perché la malattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica è una malattia che esiste in tutto il mondo, è sempre esistita e non è legata al consumo di carne. In Italia noi abbiamo circa 100 casi l'anno di questa forma sporadica, mentre invece la variante è legata al consumo di carne infetta, è una malattia estremamente rara, ce ne sono stati in tutto il mondo non più di 220 casi, e quindi è importante fare questa distinzione perché hanno due eziologie completamente diverse. Ma quali sono gli esami, professore, che permettono di differenziare le due forme? Da una parte è abbastanza, da una parte sono la presentazione clinica, un po' i pazienti con la forma sporadica di solito sono pazienti che hanno oltre i 60 anni di età, mentre i pazienti della variante sono persone che hanno tra i 20 e i 30 anni, poi sì. Ci sono sempre delle eccezioni, come questa signora che per esempio è un po' più anziana dei 30 anni, però sono sempre persone relativamente giovani. Poi colpisce di solito, i sintomi iniziali di malattia sono lievemente diverse, perché nella variante ci sono spesso una sintomatologia psichiatrica o dolorifica all'esordio, cosa che non compare nella forma sporadica, e poi ci aiutano alcuni esami strumentali, come per esempio la risonanza magnetica nucleare. Non è possibile però per la sporadica fare una diagnosi preclinica, vero professore? Né per la sporadica né purtroppo per la variante. Non esiste un sistema per fare una diagnosi preclinica, per cui oggi come oggi noi non possiamo non abbiamo a disposizione un test per sapere chi è infetto e chi non lo è, fondamentalmente. Comunque, professore, della variante sino ad oggi in Italia ci sono stati veramente pochi casi rispetto a quello che si pensava ai tempi, me lo lasci dire, della mucca pazza. Assolutamente. assolutamente sì. Perché i controlli sono stati fatti, quindi questo vuol dire che questo ha funzionato. Ecco, questo mi piacerebbe, ha fatto bene a farlo presente, perché molta gente pensa sempre ma c'è stato un grande allarme e poi non è successo niente. E non è successo niente perché sono state prese misure precauzionali serie, precise e puntuali. Forse non troppo puntuali, perché se le avessimo prese qualche tempo prima forse non ci sarebbero stati manco questi pochi casi. Quindi, professore, in conclusione, un messaggio finale: i controlli ci sono, hanno funzionato, quindi niente allarme. Niente allarme, purtroppo questi pochi casi che continuiamo a vedere, compreso questi italiani e altri casi che si vedono ancora in Europa, purtroppo pochissimi casi, sono dovuti ad infezioni che sono avvenute tantissimi anni fa, prima degli interventi precauzionali che sono stati presi. Professor Pocchiar, io la ringrazio per essere stato con noi, voglio ringraziare anche il professor Piero Barbanti. Professore. Arrivederci e colgo l'occasione per dare un saluto fraterno al professor Pocchiar, di cui sono caro amico. Bene, ma sa che sempre essere benessere si incontrano sempre degli amici e questo mi fa molto piacere. Saluto quindi anche il mio amico Alberto Pellai, gli amici che ci hanno seguito, a cui do appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.